rompere il cazzo, so. Facci me, dormire, dormire, dolce aprile. Ma vai, vai, e cocca di tu pure, se tu sei romanzano, urienti. No, aspetta che stamani ero in città, in quel deserto. Tutta la gente che vede a mia Rosello si circudia a pittorra. Ah, a te c'è questa pittorra, comunque buonasera signor Giormaria. E a chi suga? Bau bau. Gettare da vera, andende su Renù, in Natalasso si passavano tutti i gatti che ti scusi, si può sforzare. Buonasera signor Tore. Cazzo, cazzo rete per oggi che è più a tu. Ah, aspetta, domani è ancora peggio. Basta altra tessera vicina, io li gioco appena esciti dalla vicina, fresco, fresco, come una rosellina sbocciata. E te, amico, ah, niente, vai, vai, cosa vicina, che non ti vuoi duca ma cureva, non puoi duca. E allora, è la vicina dalla centrale idrica, proprietà di tutti. Arrete ne già vedo che dipende di te, Gio Mario. Vabbè. Dopo di chi si altro, da sempre di. Meno male è andare a persa. Ma lei ha una beccia, va, di chivi. Dici che la salucazza. Come te bozzi come gli altri, Le vecchie mani basta, rumaccato, come te mani visto, tutti i zicchirrenni, tutta bozzi, mia Graziano, mi. Vieni da me, vieni di qua, tutti i gucci, per carità. Ma vai da vedere, hai coccia a tuo bugliere invece, che te ne sei da abbassare i bozzi, che sei vero. Se vedi un baccano niente ed è tutto al suo papara. Ma come ne pensate se ti riesci? Per a me. Capita, tu sapori mia Graziano, come si mai è un ieri in America, deve in America le babuai. Chissà cara tu, e c'hai fresco di dire tutto. Infatti, ma non ve ne bisogna che ti riesci a me, ne intendiamo un mattessi. Certo, lo smitter mi va già andato tutta a così. Tu gli rivedi va. La voi ha già mai cucciato un amico mio che ha fatto lo militare con me, questi micronicimo da minoreggi. Questa rete mi ha fatto tutto abbaggiato, brazzato, strizzato. Andare male lo smitter, cazzo! Ah, dirigi attivamente chi sta nell'albergo, la via tirografa, e tu attivamente a chi da Elsa, a chi sono l'amica di cui vado in paesello, allora gli anni boom, tu e il paesello. Cazzo, bisogna chiudere la propagazione, Graziano. E infatti, me fendi il gioco, me fendi. Certo, va il bongo lo squelci di bongo. Mi sono lontano un chilometro, mi. Roba è. Che piscina. E che si imbecille lì di cagatera, anche da vita. Va bene, a me ne due chili. Ah, non ti ricordi. Sai cosa mi ricordi? Allora, a chi? Fuori due chili, cosa conti? Niente, un altro, mi si sente nel tracco oggi. Dai, dai, ciao Marco. Certo, grazie, non ce n'è bisogno che gridi, ci sentiamo, cazzo, ma pensa tua moglie si intende di disegno di goza. No, non era a me, stava dicendo a mia figlia. Ma io non che fare il tempo tutti. Buonasera a tutti. Sono stato a Platamona a Pilano di Gelasso, ma c'era sempre caldo, in macchina non te ne dico. tornato distrutto. Ci ho buttato via tutto, la roba sta appiccicata addosso. Ci ho buttato via la canottiera, le mutande, le calze, tutto. Mamma mia, e cosa sarà? Se è così adesso in estate cosa sarà? Povero me. E cos'è rinchiuso come un vermicello? Ah, inteso l'attore. Sì, cazzo. Marco, va per ne guardava, cosa sarà in più? Oi. Io lo soffro parecchio. Devo fare testamento, mi sa, prima dell'estate. Dell'estate, buonasera a tutti, vai Gio Mari. Ciao Mari! E te Baba! Ti ha rilasciato Marco Aurelio! Ah, tabacco, gatto, tu vengo che è tutto nudo, gatto. Cosa hai combinato oggi, Marco? Siamo andati a pilare il gelato a Platamona, ma c'era caldo in macchina. Ha avuto caldo per tutto il tempo, mamma mia. E questo è niente, risetta giugno, luglio, agosto. Ah, udite, sul sito mediaglobe.it hanno terminato l'apparecchietto di Gio Maria e anche a Mediaglobe su eBay, terminato, non disponibile. Tutti si saranno buttati a vero, tutti si saranno buttati, infatti avrai la cirurgo sarebbe di più. Ho visto dei prezzi su eBay, 80 euro, 90 euro, 100 euro, quello era un prezzaccio. Vabbè, tanto non l'avrei comprato che non aggiudirà. Ma perché ordinarlo lo vedi? Come Gio Mari? Lo dovevi prendere? Ma in realtà no, però sai, non era male, magari avendo i soldi il pensierino ce l'avrei fatto. Tanto alla fine, così, per usarlo anche, vabbè, in macchina no, perché... Ma poi non ne avrei comprato, vedrai, anche avendo i soldi. Però era veramente una bella occasione quella. Vabbè. È bello, anche in macchina, questo va benissimo. Perché è piccolino, trovi il punto buono per mettercelo e ti dico che è un bombom, mi ce l'ho avanti qua, bello, bello, e va bene. Ciao, sì. È bellissimo, insomma, ha fatto l'affare là. Ma quant'è quello piccolino che avevo preso io, Giovanni? No, è appena più grande rimane, dai. No, ma è molto bello, C'ha 6 o 7 colori, c'ha, bello veramente. E poi è semplice, capito? È bellissimo. Ti vedi, ragazzi, ecco perché non li ho visto più di quel pezzo. Stavo guardando anche poco fa e non li ho visto da Miragob. Cioè, da altri posti sì, ma costano di più. 110, 115, a questa ne bogo. E poi è omologato anche. Spero Gio Mari. È omologato, questo è omologato, sì che va bene, ragazzi. Però Miragob non ce li ha più. Ma io ce ne sono, in Italia è pieno di queste apparecchiette, vai, sono usciti adesso da poco e ti dico che è veramente bello, vai, è un affare. Ormai magari c'era quel tipo, quell'amico nostro. No, non lo so. A chi interessa può telefonare? Muratore, magari chi ce l'ha brammi, Marco, se ti interessa. Ma se lo prende da internet, da eBay, da fuori, non lo so. Guarda, Mediaglobe ha fatto sempre prezzi eccezionali per i baracchini. Io questo qua omologato, no? Il 3009 omologato. Da tutti gli altri costava 180, 189 o giù di lì, fai una media di 190 euro, da lui 150 euro, capito? Tutto, garanzie, tutto, ha fatto sempre prezzi buoni e aveva fatto un prezzo anche buono per l'Alan 48, scritto in lettere, è l'ultimo che hanno fatto, 150 euro, quando tutti lo vendono 180, 170, 190, GBC addirittura 200, ma notte innanzi. E beh, GBC la va, mia roba l'avevo messo a 150 euro. Ma anche questo tipo già è abbastanza discreto, già se li fa gli sconti. Io l'ho preso da questo qui, quello che c'ho, non è che l'ho pagato molto, anzi me l'ha dato scontato, anzi ne ha giubilato lui e mi ha dato anche quel filo che lo attacchi per attaccare qualsiasi microfono, già fa, già pronto. Aiaia. Va bene, ma può darsi che qualche venditore italiano poi lo venda a un prezzo ragionevole, dai. Capito. Va bene, riprendete pure che io qua mi sto svollendo dal calore, dai. Pensa che da Ushuaia sono entrato un attimo e mi sono bagnato la faccia e la testa dal rubinetto, non ne potevo più, guarda. Riprendi Gianmari, vabbè, comincia, bello mio, il tempo suo. Io poc'altro sono sceso giù e ti dico, sotto quel portone c'era un'aria calda, ma calda veramente, ne sono salito tutto sudato. Oh, che anche qua è tutto aperto adesso, però sta entrando aria calda, c'è molto aria calda, per cui bisogna chiudere tutto. Tore, Gianmari, io vi devo lasciare perché sto uscendo e quindi ci sentiamo dopo, più tardi, quando rientro. Vabbè, ciao Graziano, ciao Marco e ciao Gianmari. In macchina te lo metti, tu? Cosa? Ho detto in macchina te lo metti? No, non lo porto presso con me, no. Oh, lo porto quando vado fuori. Forse il lunedì che devo andare col suino. Forse il lunedì me lo porto. Eia, va bene, allora vai. Buona passeggiata, ci sto magari eventualmente più tardi. Ciao. A dopo, ciao Marco. Ciao Tore, buon diretto. Vai Marco. Ciao Tore, buona passeggiata, vai. Riprenditela tu, Gianmari. Ebbene, c'è una vendita, Marco, tu ti avevi dato, sì? Come? Tutto? Avevi dato tutto? Tutto no. Io ce l'ho buttato due però, ne sono rimasti altri due, anche quelli butto via adesso. No, buttare no, meglio, tanto se li vendi, li devi svendere e non conviene, meglio guarda, io me li porto nella tomba gli apparati, ho deciso. Buttare, non è che li ho buttati, non mi ha detto, io li ho dati, là. Ehi. Va bene, dai, mi rimango un po' l'ascolto, mi adesso davvero ho messo appena al minimo il ventilatore a soffitto, come si chiama, in modo che muove l'aria, capito, e si sta bene. Mi stendo qua sul divano come ho fatto ieri e mi riposo un po', dai. D'accordo, ci sentiamo magari più tardi eventualmente, dai. Buono, allora, buono, diciamo, riposo, ti dà. Buona pellicella, ok. Sì. No, ma già sono sveglio, dai, non credo che riuscirò a dormire, comunque già vi ascolto, dai. Ehi, you, così è. Per carità, un via Rosello non veda un'anima, un cane, Gianmari, su deserto, roba a parte, ma metto anni fa, ti cudi la faccia, uno con l'altro, ma passa lì, per carità, che schifo. Sì, la verità che io non si è abbassato. Certe ore c'è gente, molte gente, certe ore magari non c'è nessuno. Così che mi sembra che sta risicchio, sta andando, è peggiorando. Boh. trovi solo gente di colore, basta, boh. Infatti, se uno gente di colore, due, tre pastori, 30 un negozio, chi vi la bagnetteria, e tutto sarrato, tutto saranno abbassati. Uno per la mongina va per una cinese e vende roba cinese. No, c'è nulla, è morto, morto, morto, proprio. Alle più delle 11 erano, oh, a chi ci ha cazzato entrare con paoletta, ma a caldo. E di qua erano più delle 11 quando sono andato via a Rosello. No, sono entrati in questo negozio dove c'era Mongini prima, che erano molto cinesi. Poi sono andato via davanti, tutti quei negozietti che c'erano, l'umidesi, sarrato, non ve ne più. Sì, perché adesso sono questi supermercati anche in Pedranita, e vedete, non so quanti negozi sono in Pedranita, e molti hanno traslocato in quella zona, e molti sono andati anche in fallimento, e purtroppo è così, magari perché guadagnavano poco, e li claccavano la tasse, così che erano più morti di fame di prima, se puoi immaginare. Allora chiaro che vorrebbe chiudere, cosa fa? Cazzo, boh, non lo so io. E adesso ho questi cappannoni che sono pieni, ma vedrai che i cinesi stanno facendo affare, l'italiano no. L'italiano muore sempre di fame, i cinesi quelli guadagnano un bel di soldi e stanno andando sempre avanti. Boh, ma mette la cartonata ai libri, e la cartonata scendendo da piazza sola. Con tutti i ragazzi della misura, della frutta, poi fin da là si vede chi vende a rugaggio, ma tutto sparito, tutto morto, tutti i negozi li saranno abbassati, chiuse, affittati, tutto affittati. Beh, andiamo per... Purtroppo è così. Questi grossi negozi hanno rovinato quei piccoli, ma purtroppo la cosa è andata avanti. Ma che tu magari in un supermercato tu vai e trovi dalla la Z, mentre in questi negozietti piccoli non trovi niente, tante volte anche questa roba, pure roba giocata a me, specialmente in questo periodo, magari anni fa no, ma adesso vanno tutti fuori, per cui fanno la spesa e si caricano bene, per cui questi piccolini sono andati in fallimento tutti, dai. Purtroppo è così. Ma brutto mi proprio, aumentarmi da come c'era prima, va, non riesci a passare prima, e chi per un magano mi ha Rosello, dall'imboccata di chi visitare una casa, chi vi sopra via pescetteria, piazza pescetteria, tutto deserto, tutti. Ma è così, e infatti i progressi stanno avanzati dalle altre parti, no, non in Santa Rivica che non c'è più nulla, non c'è più nulla, ma pure in un mercato penso che non è più come prima, già andati sì, la gente, però ha giusto per mettere roba in cazzo veramente, e perlomeno, io ho giusto giù la di cui sono andato. Già, finì roba buona, ma per roba mezz'ora pure, come ce l'hai negozi? Non ti credi che vera tu stai niente, no? Mi sa so per me la fame io. Però si vede i brighi, puntinosi, e già so bucare, è logico non per andare nei bimicciuli io. Non è che hai la scusa che la gente oramai se ne andà al supermercato. Qua nei brighi, alle stelle, per esempio, dai che me la dita rimane, a Caffuda paga da 12, Tore me l'ha detto. E da chi sa 20 euro, e chi è chi piace la casa di chi? Se va bene, amichissi, lui faccio di frigi a 8 euro, non Zarretto, un altro tipo di pesce, perché Zarretto dice non è entrato. Però come prezzi sono beccati, no, è logico, la gente lo vanta. Siamo in stradina, a Ruppì, abbiamo preso due polpi di soglio, ma uno grosso e una biopra Maria che ha poco giù, non è che più minore. A Cazzuera? 14 euro il chilo. A 14 euro il chilo. Così che da voi ha pigliato, come si chiama? Un altro tipo di pesce che non me lo ammetto come si chiama, questo pesce, il pesce pare fare cose, un tonno pare, ma grosso, ognuno, ne avevo pigliato due. Infatti l'ha già pulito, tu l'hai fatti due, uno tagliavi due e ti cucineremo domani. Non so che pesce è, ma è grosso me, tutto buono fa. Mi poi stiamo dicendo, no, lo botta, ma fatto qui, infatti, ma se si figuria non ne ho preso. A onde zera? Posso di cuglio. Ma male! Però non ne ho preso l'anguille e pesce di frigifa a mezzodice, era fresco, buono e niente. Per la zuppa, bella la zuppa, ma bella veramente, non la posso pigliare. Cacca, a me piace chi ci croce, mi piace. Insomma, era bello, oggi la mia roba, bella fiera con lo figlio, per cui un po' di spesa ce l'abbiamo fatta. Tu vuoi la 14? Ah? Tu vuoi la 14? Ah, 14. Per cui, boh, le orate non la capita che andavamo troppo. Sei ancora bravo. Così che per la cosa, rubisa, rovira, buru, però per roba fresca, dai. Invece le orate erano attesi, non mi ha messo un'orata canta la graviglia di questo marmicchi. Le voglio a 10 euro te le do alle prime, no, ma faccia giù, se mi frega cosa mangio di cuffarà, un bacio me l'ha fatta, no, e poi le orate, mi lascia ancora il possetto, ma con tutte le frasi che cagli da parte è passata, cosa, ha detto, no, solo il posto quei pesci di friggere, che non mi ammetto che affetto, però c'era buono. La costa a mezzogiorno, la una, la facciamo io. Però come prezzi, mi sa che è caro. Il polpo era 11, però bello, su un abbezzo di polpo. Ma dice, no, adesso non ne voglio pulsi, no, mi voglio la ghita che su becche bu. Poi ha sbagliato le melanzane, i vivi, e allo sto frutta, dove c'è la frutta, la verdura. Dice, no, è cosa, finosci, fa cosa uscita, dice, ma pigliare un pochino il bassetto, quando lo voglio, vengo e me lo voglio fresco, direttamente, o no? E poi ce l'ho. Se dirai. Per esempio, io riabbigliavo pure una cosa, loro, la zuppa sta chi era troppo bella ira. Però dici, vi la fai, ma cosa la biglia fa? Ma io era più bella a filo, era più bella di chi ci avevo, però non avevo un bigliato, avevo un bigliato di chi ci tipo di pesce, sta io, secondo ognuno, pare a tonno, pare a però non è tonno, non è tonno, non ti dico che è tutto buono. Cazzo, l'avevo bigliato due, con ognuno, non la fremo in due, uno a magliazzino, capito? Per cui domani lo fermo, una sarata e tira a cappello, se ne fa, se non senti cosa mangia, boh, a me non mi piace più niente, boh. Ma oggi non mi attesti, ma ci ho fatto il giorno un bacio brissimo, oh, poi vabbè, comunque, con un calcio di ferro, cosa ti butti, la becca è male, no. Ma me ne ha mangiato quattro di questi pesci, buon avvio, una fetta di cinghia, no, ai mali. E invece è un corso, ma è chi un gatto. Ah sì, a mangiare un bel fa di male, magari la faccia in sera un fresco che andava. Bisogna mangiare un bel di frutta, bisogna mangiare. Sì, bisogna mangiare un bel di frutta. Ma vai, era un periodo per cui, melone, cazza sidria, cazza pesche, pere, ciliegie, che beh, tutto bisogna pigliare. La frutta va di bene dell'altra cosa. Così che magari mangi più poco, però se la frutta non deve mancare mai, mai. Noi non facciamo più niente, infatti era una chita che non riusciva, mi chiede, sentia male. Oggi si sentiva più bene, allora se mi si dice che non fa nulla, non facciamo più niente. Capitano, se mi si dice, ho fatto il giro prima a LD, da voi siamo passati a Oropì, da voi siamo usciti a Coso, a Gioppina, io ho abbinato un po' di fettine, cazzo, burro con cifettine, beh, da filo, da origini, e siamo fatti a mezzodì, una fettina è una pancetta, con l'insalata, e ti raccappa, penso che sei, non sai più cosa mangiare. Io cosa mangio, di frutta, per tutto. La farina, ha sbagliato pure quel meloncini rotondi, quelli piccoli gialli, che sono arancioni dentro. Cioè, era buono. Oh, pera, mela, arancio, banane. E la prima frutta, le espole, oh, vi. La sindria pure, beh. Mi ha giovagnato però a fare un beato l'altra sera non avevo gara di magna ma con baletta siamo obbligati una di 10 bizzettini al taglio una barombra e se ti vedi ma come la mangio vabbè io la bizza e ogni tanto magari fa accompagnare la mangio ma non è che mi fanno il tanto ma la bizza io noi sotto abbiamo chissà familiare chissà che la manda però lei ne mangio una fretta anche troppo io no manda a me la bizza la manda rispetto la mangio ma fa accompagnare ma di io mangio un'altra cosa invece mangiare la bizza ma se no a Mazzano si da giù qua la fa la campagna mi riporto questa lepra che veggia, cotta veggia che sanno è bella veramente è madura pure non l'ho fatta ancora allora la Mazzano si da giù qua la fa mi la posso e faccio pure un po' e faccio tutto faccio mela, bera, cariaccia, melone e sidra tutto faccio allora la Mazzano mi porta la campata e mi riporto un po' di lepra e si la campata cosa mi fa rispetto cosa mangio non so quasi mi vorrei bocciare a mangiare domani e pura io sono stato a città mercato però non vado no mi mangio un becco domani con l'insalata e secondo l'acquillo la lepra si può fare battita se no se ne la mangia nelle bizzone le burrate se la piccolita e se la guasta si può fare se fa a farina se no se la mangia nelle burrate già finirebbe la carne la posso bere già finita neanche si può dire mezza fine quest'anno però bisogna essere in due a mantenere la carne a rasura non li posso si va giù da e mantenere la carne va bene ma se no non manca a pensare certo. È mezza veramente così che bisogna far dire se no se la mangia la fine con i burracci che non vedrai che tu roccio che fa un bici con punta attaccato con bici funziona al limite abbiamo modifiche li fai tipo due gica le belle di barattoli di questi blu cocchi non di assi di questi cocchi l'attacca a questi un bici qua bisogna lavare sfrazzare giri che ci ordinato. Oggi fa mancare la cala, io mi mantengo pure all'Aibur, per cui, però la cala è la dimo ormai, ma si fa l'etra, a me la mantenienza, capito, una cosa, a chiara sera no, no, non rischio più assolutamente, no. Ok, vedo un po' se c'è qualcuno che vuole entrare, avanti, sto fermando un'anima, ma chi ce la sta ancora in campagna? Con te il rubisillo. Ci ha gettato la papa di Bacchigi, il rubisillo. Ma il rubisillo mi ha occupato, tu che ti fa? Per una sera è bucciato il bisillo. Ma che posso tutto in bustina e lo metto nel possesso. E le fa per lo stesso. Già ce l'ho quello, oramai. Dici che ti dà mantenere la casa, devi considerare, devi stare attento a chi si sei da un bene, è capace a essere un capo, bisogna che ci devi alzare, fa allungata a pigliare, si può venire una bazzinetta, io non vi lascio, e non c'è Luca, vedi, oppure c'è un figliolo. Non è alta, sai, dai, non è alta, sai, per cui... E poi ci vuol rischiare, dai, stanno piano, un'attenzione, e così via. Lo abbiamo fatto prima, ma allora domani l'approfitto e farò. Sì, stiamo piano, se posso fare forse, la cosa, chi verrà bene la forza, ma che soprattutto il forse, ma ogni male se l'attacca. Ok. Se no, se vai in questa specie di bicicletta, con chi tu gli hanno imparato a stessi, la crampi, la gli piano piano, adesso stai facciata, e gli hanno imparato a stessi. Se sono male ti viene burro. Vediamo. Vediamo. Dai, grazie, 10 minuti mi affetto che prima, ok. Già acceso, chiama, già è sopra il tavolo qua, ok. Bello bene, l'ho visto sì. Bello bene. Grazie. Oh. Non vedi. Sono nel cortile con Paoletta. Come? Nel terrazzo. Ah. L'usolo vi siete il biglietto. No, stavo passando e adesso stavo mettendo un po' l'acqua alle piante. E alle fragole. Ah. Bene, beva. La giubbato due maturi. Due cuori sembrano. E io mi ho mangiato il gelato va, a faccia a due. Oh, ma ho mangiato anche ieri notte, ho comprato quei coni che vendono, quei coni no, e gli ho messo pistacchio, cioccolato, tutto mixato, ma gli ho fatto un mega gelato prima a sfida, saluti me lo do rapà. Me la giboccio tre tipi va. Quelle bacchette che sono mischiate, pistacchio, limone, panna, tutti si mischiati. Ho comprato l'altro giorno un paio. Infatti, è giusta la galera, l'ho girata, stava meno male, e già ho fatto così. Oh, beh, che c'è caggio me? E prendi caggio ancora, eh? E per caggio sì, anche la piennetta ieri notte mi ho mangiato. Che è un pezzo quadrato, però è lungo. Oh, è scaglie di cioccolato, ci sono, panna, insomma, già è buono, buonissimo. È tutto buono, tutto buono. Ma è il bello sempre il gelato, anche i ghiaccioli, quelli mischiati, quelli al limone, che poi il bastoncino è delle quince, allora io lo spingo, compro. Ma è venuto, lo pulizia ed è buono a vero. Chi da rotonda lunga, gli indiani un tempo, allora non ha più visto vendendo. E la ricoliccia brutta non mi piace a me. Invece è buono, è fatto il burube. Io questo programma al televisore della liquirizia fa bene anche al cuore. Ma cos'è che fa di bene? Boh, tutto fa di bene, faccio fa di male. Davvero. Tutto è buono, c'è buono. Così che bisogna mangiare il tutto. La liquirizia mi è sempre piaciuta, ma mi piace un burro va. Quel contenitore in plastica è bello, ci sono pezzi di liquirizia pura. Però mi piace sempre appresso. Sono delle specie di pastigliette, là, bianche, alla mente, all'interno c'è la liquirizia, quella ricanita che piace a me proprio. E sono ben forti. Sì, me la piglio sempre. Sì, vabbè, capiati. Che si sta andando. È buono, a me già mi piace. A meglio della gingomma. Anche la gingomma pure ai masticami bomba la basta. La liquirizia invece no. La liquirizia la macco quasi liberare un altro quando è intasato. Poi c'è quella menta che lo ricopre bianca, allora è poco che sporchi. Quando finisci vai un altro che capparello là e poi vai l'usore della liquirizia. Sì, da Giovincelli già li mandavo un mezzo a liquirizia. Andavo con due fracchi, tre fracchi, si reagiva la ricuzione, allora si acciappava, non so se ce l'hai tra mezzi. Era a cuccioli lunghi. Chissà girata, chissà moda non mi piace, perché c'ha poco gusto, poco sapore. Qui c'ha bastoncini che vendia la buona nata, il signor Rezzo, il tabacchino. Erano bastoncini lunghi, 10 centimetri, rotondi, 1 centimetro. Quella era proprio liquirizia pura ed era buona. E quella che c'è in quei ghiaccioli è uguale. E li piglia apposta per quello, e anche da voi. Le liquirizie me le mangio. Vai, giovane, ne mangiamo un bel. Forse da ci mangiare un gruppo, un brimbo, è pagissimo che non mi piace. No, io mi la prendo, ma sempre me la più pigliata. Unirà vecchio me la compareggio. E non è tutti che la vendono qui. Prima, anni indietro, già la trovavi dappertutto, anche in un negozio alimentare. Che vi era stata a casa di mamma, la signor Mario, la buon'anima, la vende anche quello. E la prende qualche lì all'alimentare. E invece va, non è tutti che la vendono. E invece è buona. Ripeto, ha capito, capito. Io ripeto, si vede che mi piace mangiare troppo, ma è la parte che mi piace di più. Ma vedi che è della la magna, Si vale fino a un pacco, a quella manca il vecchio, così che entra della magna la liquirizia, ma io no. Un paio di mesi fa era brutta e verdura, li via pacco, le mie bale. Si sa vedere no, da bacchino, c'è una frutta e verdura. Va via la carruba e me la giubbarata, buona retta, La carruba, a te la metti, già l'hai mangiata, via. Ci hanno mangiato le due, cazzo. A fine di 10 al minuto finirà un albero, ma manna però, è vero, a fine alla parte di una fattoria andavano sì in paese allora, andavano tutti alla paese, sì, va, sì, no. E fa ombra via che c'ha il garrubo, ma manna però, è tra sette piena. E dopo mi senti a mangiare carruba ai ghibi. No, quando ci avviene un attimo si è andati ai ghibi alla Madonnina, ogni anno va su un centro di ambulanze. I ghibi tre, stavo già cantando il Borivinera, le carruba, andati a mi ghibi a passita. E chi c'era nelle campagne di Oggiano. E noi entravamo e si battiamo la carruba, i capi, vedi? Mi ha cognata, sempre lei che mi andava via, quando sta già arrivati noi, a fare la carruba in bicicletta, e mi dava la buccia. Ehi no, Catarezza, dove siamo noi, veniamo un albero, ma non c'è canto di buona, è sfasciatura, sotto in terra tutti bene, non accogli nessuno. Catta, un baby, ma poi dai pure manna, catta. Ah, vai, sto passando la strada, pure a sapere chi sai pure. Donnano è piena di garruba, catta, Gesù Maria, catta, in terra, filo un rastrello a sacchi, a vedere. Ricavate chi sa la magna, è strano che non se la fa di nessuno. Quella è capace di rimaniare poco io. Ma siccome c'è capace non sapevo, ma tu vai proprio in macchina, va. Se c'è la macchina che hanno pure le mangia, mangiare solo benzina, capito? Prima invece avevi cavati là e non si che mai a mangiare la carruba, anzi la attaccava lì. Ciao Sergio, ma a me tu che ci vieni a buttarsi in ruote che hanno stato in via Roma, sparava, si saltava con un carretto, carrego di giacche di garrumba. A Osilo se li buscava, ma ricavati in varia edge, là di mari. Ora ho piantata, ha giubilato un paio di garrumbi da che sei a Arezzo e la ho piantata in campagna, tra il tuo francesco. La ho molto sicurare, ne sono usciti due solo. Uno, l'una è bocce, l'altra è bocce, una è viva, è già, e saranno 4-5 metri a giaccia, però non è buona carruba, chi è di chissà, forse è maschio carruba, non è buona, buono un bel di fiori, però non viene buona carruba. Si vede chi poi pure è indessata chissà. Forse è minore ancora, magari quando è più manna sviluppa la carruba. A chi si diventa animale l'albero? Io mi ammetto, ci sono della campagna di Oggiano, caspita, era enorme l'albero. Manna firme, faceva l'ombra sotto, vento fresco. Mi ricordo che era un bel grande. E magari ancora fa il fiore, a chi è minore. No, era fatto per cassiccio, per azza, però i luoghi di Ocadareggio, c'è già la carruba, è canto rudito lunga, però ci rifila ancora. No, da me non è buono, no, è maschio, ho visto il faggio è maschio, capito? Quindi è una sala, pure più che attaccato di luoghi al mostrare mio, chi c'è maschio, ma chi c'è, fuori un bel di fiore non è buono. Mai la posta, se manda che sa, però è pizzata, buru, e torrendo a cresci, ma no, non è buono mai. Mentre invece l'altra che più avanti, chi sa è proprio carrubesso quanto è buono, cazzo. Credo che se ti rendi pure la strada quando li para. E tu quando li para, ne raccoglie e pianti chi sa in campagna, vicino a chi hai piantato. Ha piantato qui sa proprio, e ha giubilato proprio qui sa che ha giubilato la roba dei vivi. Però per te me sono un po' indessata, non so fa cosa non è buone. E mandami, non è manda che sei fatto ma te. E che a casa avevamo 25 cani, papà. Così che non è buone caruba, capito? Fuori l'ufiori e da poi li fare, capito? No, allora no, non si fa nulla. Io controlla sul computer a vedere cosa dice per crescere la carrumba, se vuoi mi cado, lo zecchio, il computer, a vedere cosa dice. E non faccio mai pensaggio, non mi faccio mai pensare, infatti apri a provare a domandare io allo computer a vedere come c'è questa questione. Però Sì, me la metto domani, l'accento è vedo un po', ma che è mannita, non è buono, so che non è buono. E poi ti dice, vai no, che ad Arezzo, di ciò che senti, era minore, ma cazzo, era più a sappella di me, cazzo, e poi già la carruba, ti puoi immaginare, vesti che cazzo che ha vicino, non muore mai. E tu guarda il computer, se sei macciolato paura che è interrato. E piglia un gestino a fare i fragoli. E poi, per la pei. Gelato di Gemagnelli. Cucù. Hola. Ciao Mario. Hola. Hola. Hola, hola. Ciao Mario. Ehi, amici. Ehi, amici. Ehi, già. Sono qua, sono qua. No, siccome stavo spazzolando, che venne un bel in FM, venne un bel e la faccio con il raddaio. Ah, e subito ne rispuso là, sono già temito. Saluti mi posso ribennetta arrabbiata. Grazie, ciao Vincent Ruzocca, allora mi cura la canna. Mi ha dato, mica se cugnati, ma niente lì. Ciao Bibù. Piglia della borsa di ghiaccio, ma chi sa poi si andare in, a manco di sprecca. Ehi, apri, mi muovo un poco, là. Ah, va bene, va bene. Cadè, me l'ha già fatto pure un po' per danzare le mani. Sì, l'ha già considerato un po' e me l'ha già fatto pure un po' di motorini minuti. L'ha già fatto un giugno, mi sono già un po' e mezzo. Da voi mi ha già fatto una bassa asciutta. Buona rezza era. È buono, sì. No, l'ho fatto da poco. I moscardini col sughetto. Che è città? Buona rezza. Me la guadagnate, un mezzo di era luce buio. Vabbè, e oggi mangiamo un mezzo di era luce. Così che arrivare a fare una burezza. Oggi cosa avevo fatto? Oggi avevo fatto i pettini. Domani un bescio. E via, e cosa vuoi fare? Sì, cosa fai? No, l'ho fatta anche io la polenta. No, no la ghetta, no questa ghetta, la ghetta abbassata, la polenta, buona è, scherzita, me l'ha mangiato un abbiato, a pranzo e a cena, però ho mangiato solo quello, buona rezza, a me mi piace un bel. Poi ci vuole le cose che vivo, ci vuole la salsiccia, ci vuole la mancetta, la pubicata. Cazzo, ci vorrà sì, la lugriglia. Il salsiccione. Cazzo, care mattinata, e il tuo po' di zucco. E tre beriminde, e poche buone, amici. Piano, beh, tu carregate, no, già mi piace a me già. E la pasta, me la mangio il burro di domani. Ed è ancora più buona. Mi viene a me ancora un piatto, mi pare che viene, ma io non li mangio. Dai, a ripiare. Ce l'hai cagli, se la mangio. Cosa si sente, brutto buffo? Magnoni, chi lo senti altro? E buona rete, l'hai cagli, li buono in un giugno, in l'altro, un parmigiano. Oh, yeah. È buona. Ciao, Gianni. La polenta a me mi è sempre piaciuta, mamma la faceva spesso in casa. E adesso si scia, riprendi già. Ma sei da tutti, anzi tutto. Ho detto, come la fai tu? La fai a tocchi e poi la fai a fettine, oppure la fai morbida, tutto molle? Che schifo la polenta. No, la cucino e poi la baletta oppure la svuoto sopra il marmo e la lago in frigga. Le bongo lo giugno, il barmi sta e c'è la fucsia, mi pare che è avvinnaggia ancora, è buona. E mamma la faceva in due maniere, la faceva appena fatta, dai, ce la metteva nel piatto e così. E poi la faceva in un'altra maniera, infatti la faceva raffreddare, la faceva a 4 grandi e poi la metteva in freezer. Quando le serviva prendeva i 4 già tagliati e la coniva, la metteva in fuoco. Anche così, e beh, farò gita sfida. A chi rimane, in altra rimane, ha fatto le zucchine ripiene, siccome erano troppe, e l'indomani mattina gli stava i soffretti, si ribone un contenitore e il tortino ha fatto con quello che è rimasto del ripieno delle zucchine e l'ho messo nel fossetto dentro il contenitore. Guarda, lo voglio, non lo capo, lo faccio scongelare e mi le mangio. Aspetta che l'ho sfumato. Eia, quelle zucchine rotonde mie, a boccia, Gian Mario. Malvato, grazie. Buona rete, il ripieno, curumazzinato, tutto il coso della zucchina, ci tritti anche la cipolla in mezzo. Oh yeah! Me l'hai mangiato 4 a malume zucchi, e tu la rotti, solo si decciano subito. Ma ne mangi io, zucchine al ripieno mi piacciono. No, mi piace il sicuro insieme, oh mamma mia, ciao Tony. Ciao Mario, io adesso sono buono il sicuro in piedi, io pensavo che era un'altra cosa invece da quello che hai tu poco fa, non l'ho mai mangiato, io non ho dell'altro, per carità, e anche con la salsiccia, pur. Zucchero in piedi sì, ma la polenta no. Invece è buonissima, vuol dire non l'hai mangiata come la faccio io, esce un bel buona, ma buona vero, l'indomani è ancora ben buona. E allora, e gli zucchini romassetti, che è città, buona rete, so. Ma ti mangiate un panino in paradiso di zucchini. Vabbè, io tutta la vita non faccio la tortina di zucchine, che il discorso è diverso, è uguale, capito, ma la facciamo la tortina di zucchine che è una cosa allucinante, solo che ne mangio un pezzo che diventa pesante per tutti, capito, sembra che non hai mangiato nulla, invece ti hai mangiato mezzo chilo di roba. Anche fiori di zucca sono buoni. Ciao Marchigio, ti ho sentito piccolo piccolo piccolo almeno. Buonasera a tutti, Cristiano, Gian Maria, buonasera a tutti. Non è nemmeno vero sta Marchigio, buon Marchigio, il radio sei basso. Il segnale è buono, è 9, la radio è bassa e non si capisce perché c'hai questo problema tu. Però oggi non mi sembri chiaro chiaro, però c'è il microfono attaccato alla bocca. Ma io? Eia! Ah, non è questo attaccato alla bocca, abbasso l'amplificazione. È il coso, l'apparecchio che pompa un bel, capito? Con saletta tomba che ero come un asino questo baracchino. Forse non riuscivo certe parole a capire bene. A parte gliela appena poi. Sì, io l'ho già abbassato, guarda un po'. L'ho già abbassato. Adesso già va bene, riprendi Gian Mario. Ok, salutiamo il signor Marchigio, ben entrato. E buonasera anche a Gianni. Ma chi fa? Ci sei basso, basso, quasi quasi non ti sentivo io, che perché ha fatto il nome tuo Graziano, se no non ti sentivo io. Ah, io metto il tuo di carta sotto i piedi, almeno ti sento. Stai uscendo, è la mano del microfono amplificato, non sta andando quello, si è sceso al fumo del tutto. Non so. Ma che non lo so cos'è che è successo. Che apparecchio stai usando? È lì, perché mi dice che mi dice che mi dice che mi dice che mi dice che mi dice che mi dice che mi dice che mi dice quando scalda non funziona, questo qua è. Ascolta, fa una cosa, se non c'è da fare una domanda ti prendi questo momentaneamente, se no passi adesso, te lo prendi adesso, questo qui te lo porti qui e te lo dito il sistema, non so come ti dica, io anche me manco ti intendo qui, se stai andando peggiorando stai, come vai, adesso ti sento un pochettino di più, questo esce bene, questo l'ho imparato io parecchio, quindi se sei in macchina sali 5 minuti, sali a casa, te lo prendi, te lo porti giù e te lo attacchi. Poi quando è pronto l'Intec me lo istituisci, non è un problema quello. Questo è un apparecchio di servizio, me lo lasciate a piedi. Guarda, questo qui si invece è migliorato. No, no, no, sei basso sempre in radio, non capire perché. Basso ancora? Sì. Non si muove. Se basso era lo stesso, non lo so, o ti metti tu 3 km lontano dal microfono, questo non lo so. Questo ho detto io te lo sto dicendo, se vuoi salire, se sei in macchina, sali adesso ti prendi quello che ho io, te lo scendi giù, attacchi quello con il microfono amplificato, quello che ho io e l'altro te lo controllo, perché non è possibile, stai sentendo basso di radio, non ho, tu mi hai sentito così. Il segnale è buono, la radio è se no 2-3, non di più. Tutte e tre hanno lo stesso difetto. Ma non è che c'è problemi di antenna, no, se sbaglio. No, non sembra. Con quell'altro ci va bene, sperimentare, non è che ci faccio, no. Spera che cambia antenna. No, la te lo sapevo. Tu puoi cambiare antenna, vedo, c'è che c'è stazionale che ti faccia l'effetto contrario, in pratica. Stazionali in qualche modo, cioè 1 e 3 e non puoi essere l'aria così in basso, no? Scopo la verità a capire perché sei così basso, non lo so, tu ma cosa domani come lo senti? Gio Maria si è sentato Graziano, sono qua ma che infatti è troppo bassa la radio. Oh, come sempre quasi. Certe volte ti sento magari per 5 minuti bene, dopo si abbassa e non ti senti. O non esci o è troppo bassa la radio. Strano veramente, dai. Strano, strano amore, strano amore. Avanti Gianni. Gianni ci deve stare sensato, va. C'ho gente a casa, Gio Maria, vi sto ascoltando, va. Sono il quelli che ci ascolto, va. Ehi, d'accordo. Ragazzi, io chiudo, là, che devo fare cosa. Ce la sentiamo a domani, se coincide. Ciao Gio Maria, buona cena, buon tutto. Saluti anche da parte di Paoletta. Ciao, la sorella. Ciao Gianni, ciao chi è in ascolto. A domani, ciao, vai. Ciao Graziana, dato che mi ha chiamato Antonella, Susanto che l'ha fatto. Ci sentiamo, buona cena, buon tutto. Ciao a Coso, a credere lo stesso che c'è gente. A Gianni, avanti, pigliatela, Giovanni. Please. Dimmi. D'accordo, ciao, ci sentiamo grazie alle prossime, buon proseguimento, ricambiato anche dalla rete, ciao. Sono rientrato, Questo, quasi, mi bacchiglio sta chiudendo. Ah, mare andiamo, troppo presto bacchiglio sta chiudendo, Io non sto chiudendo nulla, chiudendo sta Gio Maria. Cos'è bacchiglio, Gio Maria? Sta chiudendo Gio Maria, non bacchiglio. Ah, vi saluto, dai, vado via anche io, ciao bacchiglio, certo dei propri amici, correti per me, ciao. Ciao, alle prossime ci sentiamo. Battista Gio Maria, sono qua, non ti preoccupare. Graziano che ha chiuso, hai capito? Ogni casino, non si capisce più niente. Vabbè, c'è stato ti abborto, dai. Castello, ho sentito Bacchino che stava chiudendo e allora ho salutato anch'io. E invece sei qua, Bacchino, dai. ripredetto, dai. Sì, buonasera signor Bacchiglio, mi stia bene, caspita, bobo, andiamo dove andiamo. Vabbè, allora, che due cose non ti è arrivato, no? Se non ce l'hanno, già lo buscano loro subito, perché vanno nel deposito che c'hanno e se li fanno mandare. Quindi se ti hanno detto dal lunedì arriverà entro in settimana. Chi? Ma ha pagato là? Allora, ti ha pagato. E quella la faccenda. E allora bisogna aspettare per forza a sì, no, ma se non ce l'avevano loro lo richiedono al deposito, lo richiedono, glielo mandano subito, tempo una settimana glielo mandano. E poi te lo spediscono, in due giorni te lo spediscono. Allora, aspettiamo ancora. Fino a poi dobbiamo cercare. Sì. Già è facile a trovarli. Guarda che talmente dove l'hai fatto. Oh sì. Mi ammazzo. Sta un attimo, Giomare, che entro subito. Ma c'è lo sta parecchio, ma deve essere molto vecchio, così. Questo qua l'avevo comprato da quando c'era Adriano e Umberto. Ma di quanto lo portò in me, tra un... Attore! Dimmi tutto! Oh! Eia! Attore! Come mai non le funziona a Bacchiglio l'apparecchio? Che cosa adesso? Se c'ha due apparecchi, cazzo, non c'è, io non ho andato in radio. È una cosa strana. La verità. Gli ho detto, bisogna che per provarlo bene, qua, o c'ha problemi lui a casa, o se no, infatti ho detto, vieni ti prendi il mio, ma bisogna che usi il mio, e cazzo, se mi non esce da qui, non uscire da là, a un certo punto, e allora senti il mio come sta uscendo, questo apparecchio qua, quindi figurati tu, adesso mi ha passato la cosa. L'apparecchio è così con l'apparecchio. Ma chi? Quali un telegramma a quello là? Capisce quasi nulla, boh, capito lei altro? No, adesso io sono col microfono amplificato quello palmare, come mi ascolti come radio? Non ti sento bene. È bella amplificata, chiara, com'è? Meglio di quello di poco fa del Cialenta oppure più basso? No, va bene, questa è abbastanza chiara. Allora, quindi, boh, non lo so, questa va benissimo. Ma che stavo con un burro, non so se è roba di cazzo, c'è tre a letto, ma è possibile che c'è la così bassa, ma non credo non c'abbia potenziali tipi di usilo del Mikey Gay, perché non è possibile, sembra che stiamo volando con un apparecchio di quelli che sono stati dentro l'umidità e ogni tanto esce bene, a volte esce male, cioè aumenta come volume di modulazione. Boh, io quasi non lo capisco, a tutti gli altri sento bene, tocca a mettere a tutto volume per sentirlo, a capire qualche cosa, se no non lo sento, e siamo vicini, magari forse Graziano e Torre lo sento più bene, magari perché è più vicino, però io poco e niente lo sento. Cosa vuol dire, Caio? Io l'ho detto poco fa, se vuoi salire su di testo questo mi dà quello mio, un'occhiata, non costa niente a me, non mi costa niente, lo provo qua a casa, se vediamo che l'apparato va bene, che scusa per la CDC o roba del genere per dire le potenziometri, mi trovo il suo, io mi trovo il mio, non è che deve pagare niente, no, ma me lo devo stare a cominciare che tipo parafango per dire, no? Se vuole salire adesso, se prende questa palata qua, se l'aggancia e stavolta lo usa anche domani. Non è che non toccano niente, non me ne frega nulla, capito? Gli do un'occhiata e tanto c'è una roba di umidità, gli spruzza per la pelle del cericito, ma come prima. Ehi, Antonio, non si sa come sta questo, non si sa. Salici domani, se vuoi salire, sono a casa domani, mi. Se vuoi salire mi telefoni, me lo dici, io ti metto l'apparecchio dentro la busta, e poi te lo porti a casa e te l'aggaggi, ci sono spinotti, non so nero, non si può cosa sbagliare. E così almeno ti controllo perché problemi c'ha quello, perché non è possibile, non ti ho mai sentito in queste condizioni. E sei meglio in PMR, oggi da che qui. No, se c'è qua, se c'è propagazione, addirittura FM, si dribba. Io lo ti dico. Va bene, vabbè, alla prossima, io mi saluto per fare il QRC. Ciao Antonio, ora ci vediamo domani. Ciao Antonio Maria, buona serata, che abbiamo visto la sorta, ma c'è QRC, vai vai, che bene Gian Maria. Ok, ciao, ma che allora, ci sentiamo, buon proseguimento, serata, ritorno in casa e a domani se coincide. Ciao, fattore. Sì, ciao, Bacchi, se vuoi salire domani, vieni, non c'è problema, lo sai, mi telefoni. Domani mattina ti faccio vedere trovare l'apparecchio pronto, anche te lo vedo direttamente io, così questo e... Così almeno tu, senti il tuo come esce, perché non è possibile una cosa del genere, non ti ho mai sentito così, la vera, mai. Uscivi sempre come si deve, come cristiano, questa volta sei troppo in basso di radio, mi. Non ti ho mai sentito così. E se mi leggi la media in PMR. Vabbè, te lo saluto anch'io. Ok, ci sentiamo, Bacchi, alle prossime. Magari domani mattina ti trovo giù in campagna. Qui la lasci dove me? Sì, no, a volte se bene, a volte no. Andate. Dai, se no a trovarti. Va benissimo, già sono in campagna. No, non lo so. Sabato, se vuoi passare tu a pigliare l'apparecchio che ho io, lo porti lì in campagna, poi fa come vuoi tu. Hai limitato lui, io lo so che sei domani sera. No, io esco in bicicletta, esco. E allora nulla, io cazzo in bicicletta, lo sarà. Così per dipetti per strada. Rubongo nella bicicletta, mi rubongo. Ho in busciacara. Ah, vabbè, allora, se vuoi salire il Bacchino, domani, mi telefono, già sono a casa intanto. Non c'è problema, se sono a casa già, batte il telefono e gli dico dove sono. Così io almeno esce come i cristiani, non è possibile. Intanto questo è un apparecchio di servizio, non è così di controllo l'altro. L'ho messo a posto perché pensavo che era morto, invece sono riuscito a sistemarlo. Quindi lo sto usando perché più che altro per non tenere le persone a piedi, hai capito? Almeno esce come si deve. Porta a posto dai Antonio, che devi dare a me? Devo prendere la calza perché ho messo due piste assieme e con saldatore così con l'aspirazione viene male, cioè l'aspirazione non serve a un tubo. Sto aspettando che arrivi l'aspirazione nuovo, capito? In modo che le due piste non si tocchino. Perché le sono andate tutte tranne che le ultime due mi sono trovato che sono assieme, hai capito? Quindi non voglio accendere, se no va in corto. Appena pronto te lo do e te lo porti via con la parete, tanto non ne faccio niente io. Poi fai quello che vuoi, no? Se vuoi tenere come in casa per recuperare i pizzi o usarlo come vuoi tu fai, ma che funziona. Sì, già me lo sono preso, lascia stare. Non me ne voto nulla. Andate. Ok, riprenda signor Gio Maria. Ok. roba nuova, facci fuori, roba nuova, cazzo, se no quella fare ogni cosa, arriva un punto, dopo non serve più, bisogna buttarla, cazzo, e io se lo prende nuovo, ma chi se vedrà che dopo lo sentiamo bello, pippante, è un bombo. Ok, va bene me, d'accordo. Quello stai usando tu? Sì, questa qua sto usando, sempre questa sto usando adesso. Vedo che è buona la modulazione, così è. Io ti sento bene, attore come lo senti? Il microfono normale, lo sento. Va bene, aspetta. Metti su le biciclette a tu. Si può punire in bicicletta, io vivo la batteria, vivo. Aspetta, anche quello è vero. Ma era un problema mio, a fare un cassettino, a pulire la batteria di quelle piccole che ha per farlo funzionare. Non è la prima che l'ha fatto lavoro del genere, no? Quando ho posato il solo display, non c'era nient'altro. Mi avevo messo nello scuba, con l'antenna in gomma, e andavo, quando parlavo, cioè quando andavo a lavorare da coso, da usai, chiamavo quello che c'è vicino a casa di Gio Maria, che adesso non c'è più, che è morto. E quindi figlio che lo pigliavo per il culo, si incazzava. Ok. Tutto è possibile a te, oggi tutto è possibile. Ci vuole la buona volontà e coraggio. Boom! Sì, io sono tre in gomma, io mi sono tre in gomma dietro, nello scuba, te lo ricordi, nello scuba, quello bianco e rosso. Cioè, mi hai visto parecchie volte. Dietro ci avevo lanciato l'attacco BNC e davanti nel cassettino avevo messo il baracchino dentro. Quindi praticamente quando col microfono, quando arrivavo lì alla usare lavorare, quando non sapevo cosa dovevo fare, andavo che cominciavo pesciolino. Quindi allora mi diceva, brutto stronzo Alessio, te lo so che sei tu quello. E che? Non dico della pescioria, parlavo vicino a casa tua, lì alla... Abita di fronte a Luca, abitami. Quello in pratica sarebbe il cognato di Stefano, anche di Luca, che è morto. Sì, forse lo conosco, però non mi lamentava. Aspetta, è possibile tutto, non è che sia una cosa difficile, no? Aspetta. Resto per la via, era morto per la via, la colpa ruba la vaga da anzi, e il Marubi aveva morto la batteria con il baracchino, cosa vuoi? Non c'era solo lui che usava il baracchino, e tu ricordi anche quello che abitava a Monserrato? Non Renzo Beckenbau, è la facura, se non mi ricordo, quell'altro. Quello mi durava dal coso, se l'ha portato il baracchino non era morto. Ce ne sono parecchi che hanno avuto il macchino della morte, dai. Ma ripeto, non è difficile, ci vuole il coraggio e la buona volontà. Sore! Sì, è Gian Marino, sono qua. Caspita, ha attaccato tutta la bicicletta, lui è diventato tutto bisante, non manubrio. E addirittura, è attore troppo leggera, meno male, buoni, è diventato più leggera la bicicletta. E la mia è pesante, la tua è leggera. Gio Marino, guarda, se ti ricordi quello c'era anche la scena dei carabinieri che è stata nella moto, te la ricordi? Te la ricordi? Eia! Quindi figura di due. Cassettina per mettere la mattina 12 volte te la do io, se no il magazzino. Vado, vieni, mi devo ricordare, te la faccio vedere, insomma. Già me l'avevi fatta vedere, sì. Me l'avevi fatta vedere. La cassettina della batteria? Sì, quella da 12 volte. Ah, te l'avevo fatta vedere, boh. Cassettina ancora io, ho sempre quella cassettina. è piena di ciaffugli, cazzo. Ok, vabbè, là, le 8 sono, io chiudo e ne approfitto, dai, ci sentiamo domani se Dio vuole, so. Buon proseguimento di serata, altro in casa e ci siamo domani. Ciao anche Alessio, buonasera, e buon proseguimento. Ripreso, io chiudo, dai. A domani. Abbiamo parlato assieme, ciao Giovanni, alle prossime, buco di sì, buonasera. Avanti sabato. Sì, mi sto usando questo con il microfono normale perché mi hanno detto che con quello da tavolo penso troppo brutto. Come è troppo brutto? Oh, non lo so perché, penso che è meglio il normale. Oh, provalo, non cosa lui a provarlo. Aspetta un attimo. Ehi. Tone, guarda a vedere. Dai, basta, non mi hai visto il marchiglio. Ascolta, ma quel barattino c'ha l'app down, c'hai? No, aspetta, forse adesso ho aumentato di forse se ne sta andando la batteria, forse per quello. Ah, perché la modulazione si è abbassata, che si è sollevata, non si è abbassata di più. Quindi a meno che non hai sbagliato tu agganciando l'app down, perché c'è le... non so se si cambia lo spinotto al topo di quell'apparecchio che hai preso, o se sia lo spinotto a 6. Ma lo spinotto è sempre a 4, è preciso, non è... lo spinotto è sempre in 2. No, si deve essere la batteria bassa. Ah, è messo. Guarda che non mi ha molto ma sembra quello del marchio, quando fanno modula, figurati tu. E si meglio con il microfono normale che è più forte. Quindi come cambiare la batteria, che come cambiare. Se il microfono c'è lo spinotto a 4, sei a posto. Da vedere adesso ho aumentato il coso, Mike G, ho aumentato qua. Di Bertone dice Mike G 2. Adesso va bene. Ah, aumenta il duvitore, ecco già. Sì, ma anche la batteria se ne andiamo, perché la freccia si muove poco e nulla. Allora cambiare la batteria senz'altro anche. Comunque, ma che io tiro sempre a manetta. Ma sta uscendo bene. Del radio è buona. Certo che è buona la radio. Non è amplificata. No, non è amplificata, però va bene, è comprensibile. Come è stato così Bacchisi, ascoltarlo. Sì, mi metto la batteria nuova a questo. Ma Bacchisi, boh, sembra che ce l'abbia sangue, ogni volta che usa l'apparecchio, non ne va bene uno. Cioè, c'è sempre male il radio, non ho capito il perché. Ma deve essere anche da qualche cosa dall'antenna, mi deve essere, boh. Infatti volevo capire, io gli ho anche chiesto. Sì, c'è la stazione di 1.3. Non lo so, boh. Ho detto se voleva questo qui a provarlo, questo qui è bene, se mi senti bene tu devo sentire bene anche io, a meno che non c'è problemi d'antenna. Due sono le cose, a un certo punto. Infatti ho detto se vuole salire domani che viene, lo prende, usa questo qui e io gli controllo l'altro qua da casa, a me non mi costa niente controllarlo. Non mi sto chiedendo neanche la vita, non è che... Peccato, il motivo perché sei così basso, cioè qualche problema c'è. Se vuole essere roba di antenna o magari l'alimentazione bassa, bisogna controllare a casa sua. Come mai scendi di segnale, mi scendi da 9 e me ne scendi a 5? Senti io, non è possibile perché sono stabile di segnale. Ma sei assì, ancora era a 9, a volte te ne sali di segnale a 9 e a volte te ne scendi a 5. Ma non è possibile perché a me non mi vale nulla qua, è strano, il segnale è sempre uguale qua. Ora. Vabbè, la parecchia che è caldo, la verità è fritta. Ma non può essere una cosa di... A meno che non sia roba di alimentatore. Non lo so. Aspetta un po'. Ora. Pinotto. Aspetta un po'. No, la radio già è buonissima e forte anche. Ma se intende bene la radio. A volte date a 9, a volte di varia 6. Boh, adesso è tranquillo. Sempre uguale io, quando uno smette e quando parlo. È sempre lo stesso. Allora cosa mi sei a fumo da solo? Sì. Ah, se sei salita a 9 si è tornato a scendere a 6. Ma non è che c'è oscillazione dentro dell'antenna per sbaglio, no? Perché la mia non può camminare l'antenna. È sempre uguale. Aspetta, cambia apparecchio, vediamo se farà, se senti qualcosa con l'altro. Quello di AIS, aspetta 2 secondi, dai. Così vediamo se il problema è tuo. No, non è fuori frequenza, no. A me sta arrivando benissimo di radio. No, io ho l'apparato normale. Come cosa mi sta arrivando bene lui a me? Come lo cerco? Sono solo 23. Prova a te, vabbè, come sei adesso? Adesso sei a 9, qualche volta è 9-10. Questo è quello di AISO, quello devo fare, con quello grande. 12,9, 11,9, aspetta. Stati di lucchi. Allora. Vediamo un po'. Ora, 12,3. 12,2. Ok, aspetta 2 secondi. Guarda per adesso. No, adesso è a 9, so che la radio è un po' scarsina. Più della volta è bassa. Vabbè, non è problema per quello. Questo è il microfono normale, però mi devi capire quello. Capito? Questo è. Non è l'apparecchio 27, questo è un rematoriale. Aspetta. E adesso è aumentata. Mamma mia, che radio vera. Mario tutta, pare che si è arrubito. Così è un tono, guarda un po', 1, 2, 3, 4, 5, 6, così è l'altro, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sì, la sarà così, così già è buono. Questo è il coso, lo vuoi su quello qua di banda. Sì, ho capito. Ho capito che stai usando. Non è 5 watt questo, ma questo è 50. Questo già arrivi bene, arrivi. È 9, 9, 9, 9, 10. È andato. È già perfetta. E questo è parecchio tempo che non lo usavo, la verità. Era parecchio tempo. Lo usavo più che altro il TMR. Questo qui usavo per parlare di là. Mi senti da fuori? Con i microfoni belli amplificati. Quello sì. Anda Antonello. Prova andare in FM a vedere. In FM ce l'hai, sì. Certo che ce l'ha. Prova in FM a vedere. Aspetta che ho sbagliato il sistema. Gli ha fatto quell'altro, no? Che gli ha passato il CVC in tutto l'apparecchio, poi me l'ha regalato, quando sono andato a accendere ha cominciato a fare fumo. Prima di non sei, dopo che passa il CVC asciugalo e poi lo usi. No, io l'ho lasciato bagnato, non è il CVC, è quello per pulire i contatti. Ah, ok, allora va bene, non fai come ti ha fatto uno che mi ha regalato un baracchino un giorno. Dice, me lo controlli, andrò a mettere a posto un bidilandera, ce l'ho ancora qua, ce l'ho. Tutto pieno di CRC da dentro, era. Come l'ho acceso? Ha cominciato a fare una fumata, gli ho detto, boh. Ho preso la telefonata, ma cosa gli hai fatto? E gli ho passato il CRC per togliere l'ossido, mi ha detto. Per togliere l'ossido. Si è pigliato il fuoco, l'ha acceso, gli ho detto, altro che l'ossido. È come se avessi messo la benzina, ho detto. Ci vediamo più tardi, ci sentiamo. Ciao Antonio, ciao Tore, riprendito. Ciao Bacchi, alle prossime, avanti Vito. Ok, ciao Bacchi, ci sentiamo alle prossime. Ci sentiamo domani. C'è il bip che è allucinante, è più forte della modulazione. Comunque a me arrivava adesso un pochettino. Deve avere le C chiuso quell'apparecchio là, senz'altro, in quello che sta usando adesso. Era Antonio di TV, a voi. No, a poco fa era a ridere, sul 5 ero io. C'è un ripetitore pappagallo, c'è. Tutti i giorni. La sera, comincia dalle 5 e mezzo in poi. tu prendi, parli tranquillamente, ti senti la voce tua. E io ripeto, pappagallo della zona della Polonia, Ucraina, roba del genere. Ma dura un paio d'ore, 2 o 3 ore, non di più, me. Poi spiglia e sparisce. In quel momento ti appare anche cosa? Te la accorgi subito, ti appare Mario quello del Portogallo, ti appare. Che lo senti? Mario del Portogallo, ma caludo. Razza di gozza. Vabbè dai Antonè, ci sentiamo domani, là. Alle prossime, ok. Sì, tu fai la prova domani sera, dopo le 5:30. In FM, prova a parlare, tanto ti senti la voce tua. È già 3 giorni che la sento io, cioè io ascolto a me, addirittura stasera c'era Gianni di Lamitte, che è Franco di Sosso, che si sentiva la voce loro. Non ci volevano credere neanche loro, ma c'è, tutti i giorni sono 5, c'è. In orario, dalle 5:30 in poi. Dura un'ora, 1:30, una cosa del genere. Arriva a volte anche Santiago 7, 9, dipende da com'è quel segnale, quel ripetitore. E il ripetitore è pappagallo, tu parli e ti senti la voce tua. Sì, sono entrato io stasera nel 5, che c'era Oragno e cosa c'era? E quest'altro di Ugilo, che lì era funzionale di mare l'apparato, boh, non lo so. Esatto, sì, io sono entrato un po' dopo, sono entrato. E ho sentito quelle, siccome riconosco i BDB di quelle porte ripetitore, e gli ho fatto aspetta Gianni, Franco, c'è un porto ripetitore pappagallo, cos'è il tuo pappagallo maldito? E tu passi l'FM, io parlo e senti la voce mia, e tu ti senti anche la tua, non so l'altro. Allora provato si sono riascoltati tutti e due, ma è durato quasi 4 ore 20 minuti, poi è entrato Mario, quello del Macaludo del Portogallo, e mi stava scappando la visita, quando c'è lui di propagazione c'è anche quel ripetitore, questo è poco ma sicuro. Come mai si attacca questo ripetitore? Tutti si possono agganciare, se tu arrivi lì, è un ripetitore, non lo so se dovrebbe essere Polonia, Ucraina, non lo so dove diavolo sia, comunque se tu arrivi ti agganci e ti ascolti la voce in FM, sta tranquillo, senti il BDB, fa il BP 4 ottoni c'ha, finale. Ah, andavi, vabbè dai, ci sentiamo, ok Antonio, a domani dai. Ciao, domani ci sentiamo, ciao, buona, ciao, buon tutto.